anche preparata, asciutto, asciutto, asciutto proprio te, perché per te è tutto facile, sei felice, dimmi che sei felice, sei felice, dimmi che sei felice. Girerai loro.